Barcellona è stata sottoscritta una dichiarazione precisa per la diciamo e la deinterpretazione del mare Mediterraneo, cosa che ovviamente non è stata poi applicata in pratica, perché insomma basta guardarsi intorno, vediamo che le guerre prolificano proprio sul Mediterraneo, ma è comunque un segnale importante che c'è un ben scritto sul quale si può tornare e rivendicare l'attuazione. Lì abbiamo incontrato sia l'Abispo dei pacifisti giapponesi che portano in giro gli Ibakusha, i sopravvissuti a Hiroshima e Nagasaki, per il mondo per fare propaganda antinucleare, sia l'amministrazione comunale di Barcellona che è in qualche momento responsabile della eventuale prosecuzione della dichiarazione rifatta e che comunque si è dimostrata largamente sensibile ai temi che abbiamo sollevato. Ecco, da Barcellona avremmo dovuto andare a Tunisi, ma non ci siamo riusciti a causa del maltempo e abbiamo dirottato non su Cuba ma su Cagliari. E siamo arrivati a Cagliari dove abbiamo trovato una splendida accoglienza da parte degli attivisti locali che ci hanno trattato benissimo e hanno aperto un fronte di possibile collaborazione immediata. Da lì abbiamo proseguito per la successiva tappa prevista Palermo, e Palermo è stata anche molto importante perché lì, e arrivo al punto dell'intervento, lì è maturata l'idea di costruire assieme le città nel Mediterraneo una rete di ambasciate di pace che possano agire dal basso sia a livello istituzionale con la diplomazia delle città, delle istituzioni cittadine, sia sempre dal basso con la diplomazia dei popoli, cioè della gente che è attiva per la pace e contro e per il disarmo, per stimolare appunto gli stati contraenti della dichiarazione di Barcellona e non solo all'attuazione di quanto è stato scritto. Dalla nostra parte abbiamo una importante arma da giocare, cioè il trattato di sì, ci ho pensato anch'io mentre lo dicevo. Strumento, cioè abbiamo il nuovo trattato di proibizione delle armi nucleari, che è sottoscritto da 127 paesi. A questo punto, come diceva giustamente Giovanna, è arrivato alla 34esima ratifica, prima delle quali è stata quella del Vaticano, che in questi giorni a Hiroshima ha ripetuto, e sui giornali di oggi, ha ripetuto chiaramente l'arma nucleare è in sostanza un'offesa all'umanità. Grazie Papa Francesco, io non sono un praticante religioso, ho sempre avuto un scetticismo di fondo sul ruolo della Chiesa Cattolica, ma in questo caso devo dire, fin da quando nel 2015, convocando 100.000 persone in piazza San Pietro, ha sostanzialmente evitato l'intervento occidentale in Siria, ho grande rispetto per quello che sta facendo. Tornando un attimo al discorso precedente, a Palermo abbiamo incontrato l'amministrazione comunale, il sindaco Orlando ha inviato una lettera a quasi tutti i sindaci del Maghreb e ad alcuni sindaci delle città europee sul Mediterraneo, evidentemente alcuni con i quali aveva già dei contatti, per stimolare appunto la nascita di questa rete di ambasciate di pace. Siamo stati accolti lì anche molto bene dalla locale consulta comunale per la pace e abbiamo, insomma, non mi dilungo, comunque abbiamo potuto verificare che ci sono le basi necessarie per riuscire a coordinare un minimo di lavoro di segreteria per un eventuale organismo che dovesse nascere. Da ultimo siamo arrivati qui, come dice il titolo, per un'ambasciata di pace a Livorno. Credo dall'accoglienza che abbiamo avuto che sia chiaramente possibile questo. E sono anche particolarmente coinvolto a causa del fatto che condividiamo, io venendo da Trieste, condividiamo anche un problema comune, che è quello del porto nucleare militare, seppur di transito a Trieste, che condivide questa condizione anche assieme al vicino porto sloveno di Koper, che sarebbe la vecchia Capodistria, e quindi abbiamo un'affinità di fondo che potrebbe fare crescere una collaborazione permanente su questo tema. Ricordo anche una cosa piuttosto importante: a Genova, pochi giorni prima della nostra partenza con la barca, si è svolto un piccolo incontro preparatorio per la creazione di una rete dei porti militari italiani. Il responsabile è Carlo Tombola dell'Osservatorio sulle Armi Leggere di Brescia. Questo nascente osservatorio, che proprio in questi giorni ha un'altra riunione organizzativa sempre a Genova, e non a caso è nata lì l'idea, questo osservatorio si propone di raccogliere in un database unitario i dati sulle movimentazioni di armi nei porti italiani, in modo da creare una sinergia organizzativa nell'attività di noi attivisti, appunto, di noi preposti a combattere, altro termine piuttosto contraddittorio, a insomma, darci da fare per cercare di evitare e soprattutto contrastare il traffico di armi che sta diventando sempre più intenso e sempre più letale. Ecco, questa è una spiegazione di massima del discorso sulle ambasciate di pace in rapporto al viaggio che abbiamo fatto. Adesso si tratta di un work in progress, è solamente un inizio. Il nostro viaggio in questo momento è stato solamente una semina. Crediamo che sia possibile sviluppare questo discorso anche con la complicità degli eventi successivi che ci saranno durante il 2020, perché oltre al passaggio terrestre della Marcia Mondiale con la sua equipe internazionale nel prossimo mese di febbraio o primissimi di marzo per l'Italia, proveniente dall'area di Alpe Adria, cioè Austria, Croazia e Slovenia, e ci saranno altri eventi che potrebbero essere di stimolo per costruire questo genere di rapporti, e cioè l'arrivo della Jai Jagat, questa iniziativa qua che si trova anche in internet, proprio basta digitare Jai Jagat e si trova il sito competente, diciamo, che è partita lo stesso giorno, il 2 ottobre, da New Delhi per arrivare in Europa. E alcuni tratti li fanno anche proprio a piedi, adesso sono ancora in India, stanno girando per l'India a piedi per poi sconfinare in Iran e dall'Iran salire lungo il Caucaso, passare il Mar Nero e attraverso i Balcani arrivare a Spalato e quindi ad Ancona per terminare il percorso a Ginevra alle Nazioni Unite. Saranno in Italia all'inizio dell'estate, quindi passeranno non lontano da qui e sarà possibile costruire delle occasioni di dialogo e di scambio, oltre che di sensibilizzazione ovviamente. Non solo, ma in quest'anno ci sarà anche la Perugia Assisi, l'11 di ottobre, dove sicuramente anche come criterio organizzativo della Marcia Mondiale parteciperemo, sarebbe bene riuscire a organizzare anche un percorso coordinato fra le varie città che hanno partecipato alla Marcia Mondiale, in modo da dare un messaggio preciso anche alle centinaia, alle decine di migliaia di ragazzi che interverranno alla Marcia Perugia Assisi. Ecco, abbiamo quindi la possibilità di costruire questa diciamo questa iniziativa delle ambasciate di pace e ci proponiamo come Marcia farmacia mondiale, di diventare un organismo abbastanza stabile di lavoro su questo tema della connessione, per dare in mano anche al Movimento per la Pace Internazionale uno strumento di appunto collegamento fra i vari territori e fra le varie iniziative che si svolgono nei vari paesi, che per il momento rimangono confinate al paese, alla località o al tema di provenienza o di finalità, però potrebbero trovare un sistema, diciamo, di collegamento e di interconnessione. E qui mi fermo e vi ringrazio. Cerco di fare un discorso un pochino diverso, se è possibile, perché mi sembra che sia un rispetto per chi l'hanno sentito, che comunque anche un rispetto per chi non l'ha sentito, perché poi non è un discorso scollegato da quello. Siccome si parla giustamente di liberare il Mediterraneo dalle armi nucleari, il 3 ottobre scorso ho partecipato a Torino a un convegno per liberare l'Europa dalle armi nucleari. Non è poi un discorso radicalmente diverso. Allora, credo che non sia ozioso fare un po' il punto su quali sono i problemi per liberare il Mediterraneo, perché da un lato c'è il problema che già ricordato la Giovanna, delle testate nucleari americane in Europa, su cui forse anche un breve cenno storico, perché c'è anche un aspetto molto attuale di pochi mesi fa, può essere opportuno. Le testate nucleari in Europa, circa 200-210, sono, come anche Giovanna diceva, non è che i numeri sono poi certi, perché addirittura è stato anche eliminata la possibilità che prima c'era di fornire informazioni sui movimenti di queste testate. Insomma, gli Stati Uniti stanno eliminando tutte, tutte quelle cose che intralciano la loro libertà politica e la loro completa libertà politica in qualunque modo e su qualunque tema. Allora, io vorrei ricordare, perché proprio poco fa, chiacchierando in cerchio, ho visto che le testate, queste 200 testate in Europa, una settantina in Italia, a Ghedi e ad Aviano, non sono bombe su missili, sono bombe a gravità, perché i missili nucleari in Europa sono stati eliminati nel 1987 dal trattato sulle forze nucleari a raggio breve e intermedio, che fu un trattato stipulato tra Gorbaciov e Reagan. L'ho detto anche prima, poi, il quale, pur essendo un guerrafondaio, si era evidentemente convinto che le armi nucleari sono veramente un rischio per l'umanità. Del resto, pensate che a metà degli anni Ottanta si era arrivate a 70.000 bombe nucleari nel mondo, che sarebbero bastate per distruggere 100-200 volte la Terra, 1.000 volte la Terra, non so, veramente una cosa demenziale. Adesso non facciamo la storia, perché vorrei venire a noi. Questo trattato dell'87 eliminò tutte le testate montate su missili a medio corpo raggio che gli Stati Uniti e la Russia avevano schierato in Europa. Attenzione, furono eliminati i missili, non furono eliminate le testate, però per cui le cosiddette testate tattiche, adesso entrare nella distinzione fra tattiche e strategiche sarebbe troppo lungo, insomma, le armi tattiche sono armi potenzialmente di potenza più bassa, insomma, hanno varie caratteristiche per cui c'è queste, non tutti gli stati fanno questa distinzione, ma dopo, siccome dopo questo trattato dell'87 non sono mai più state regolate da nessun trattato, perché i trattati successivi sono stati trattati di riduzione delle armi strategiche, quindi distinte da quelle tattiche, ce n'è un numero che non è anche molto preciso nel mondo, cioè la Russia dovrebbe averne circa 2000, ma non sono regolate per esempio dal trattato del 2010 fra Obama e Putin, ora Medved, in quei tempi non mi ricordo, sulla limitazione delle armi strategiche. Quelle americane sono le circa 200 che sono appunto schierate in Europa, ma sono bombe a caduta. La cosa grave di queste testate è che non sono ferri vecchi che stanno lì per ricordo, ma stanno essendo modernizzate con una nuova testata, che poi è una questione di Nana Caprina di dire se è nuova o non è nuova, perché in realtà è una ricomposizione di vari componenti, di varie versioni di queste testate che c'erano, però questa nuova combinazione ha realizzato una testata che è molto più flessibile, molto più precisa, perché una delle cose rilevanti di queste testate è che sono appunto state tutte ammodernate. Le circa quasi 15.000 testate che ci sono nel mondo attualmente, un migliaio poi sono degli altri paesi, delle altre 7 potenze nucleari, adesso non entro nei dettagli, come numero sono più o meno quelle che c'erano alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, ma in confronto a quelli erano delle fionde rispetto ai fucili, perché queste qui sono armi molto più precise, molto più flessibili. E la strategia nuova che si sta realizzando, purtroppo dai tempi del premio Nobel per la pace Obama, perché poi ha fatto delle guerre, insomma, è stato un Nobel molto discutibile secondo me, oro che cola rispetto al presidente attuale, però insomma facciamo però obiettivamente diciamo, anche delle valutazioni. È partito sotto la presidenza Obama un progetto plurimiliardario di ammodernamento dell'arsenale nucleare statunitense, che sta tenendo, a parte una delle realizzazioni, è questa bomba B6212 che sostituirà quelle attuali in Italia e in Europa, ma la modernizzazione ha riguardato molte altre. La cosa grave di questa modernizzazione è che senza aumentare il numero, perché a questo punto il trattato del 2010 tra Obama e Putin ha stabilito un tetto di 1950 testate a testa strategiche, perché le altre sono fuori dal conto purtroppo, a testa tra Russia e Stati Uniti. Però per esempio, anche senza modernare le testate, l'anno scorso gli Stati Uniti hanno i laboratori di ricerca, perché poi quando si dice la scienza ci sono, questo lo dico come parentesi, delle decine di migliaia di scienziati di tutti i settori che ci sono al mondo, adesso non so il numero preciso, ma anche su questo che dico non ci sono dati precisi, circa la metà lavorano per le bombe, per i militari, per la guerra. Enfatizzando i climatologi che denunciano il riscaldamento globale. Allora, a parte il fatto che già nel 72 il Club di Roma, con i limiti dello sviluppo, aveva denunciato esattamente le cose che si stanno realizzando e nessuno si è mosso. Quindi il problema non nasce ora, ora si sta enfatizzando, ci sono anche delle manovre dietro questo, non è tutto ora quello che cola, ma quando si parla degli scienziati vogliamo ricordare che la metà lavorano in realtà per la guerra, per distruzioni ben più gravi dell'aumento della CO2, perché poi la distruzione per le guerre è diretta, le vittime sono dirette, le devastazioni sono dirette, non è che maturano col tempo, aspettano alluvioni o altre cose simili, avvengono immediatamente in quel momento, quindi la guerra è ben più grave del riscaldamento globale. Io, per fortuna, io credo di aver anche contribuito, i giovani per il clima, almeno in Italia, in Toscana ma anche in altre parti, stanno inserendo l'opposizione alla guerra oltre agli obiettivi di riduzione delle emissioni. Quindi adesso mi sono un po' attorcigliato. Dicevo che negli Stati Uniti l'anno scorso è stata realizzata una super spoletta per le testate nucleari, vuol dire un congegno che fa esplodere la testata quando è abbastanza vicina all'obiettivo. Bene, questa super spoletta ha triplicato l'efficacia dei missili nucleari della marina militare americana. Ecco come si può triplicare un arsenale senza cambiare il numero delle testate. Se prima su 10 testate lanciate una per esempio arrivava, adesso ne arrivano 3 se c'è una guerra, quindi è proprio un aumento. E questo è attinente al tema, perché questa modernizzazione la stanno facendo tutti i paesi. Allora, a parte che ricordo che Trump ha fra i vari trattati internazionali che ha disdetto, perché è diventato il suo sport preferito, il tiro a segno contro i trattati internazionali, mesi fa ha disdetto proprio lo storico trattato, il primo trattato di disarmo dell'87, che è il trattato sui missili a raggio intermedio. Quindi possiamo anche aspettarci che in futuro gli Stati Uniti rimettano anche dei missili nucleari, mentre le testate attuali sono accadute. Queste differenze vanno tenute in conto, perché poi rientrano poi nella valutazione dei rischi che incombono, dell'aggravamento dei rischi, quindi siamo insomma in un momento di aggravamento. Nel Mediterraneo, cerco di venire alla conclusione, perché altrimenti per te è partito da quello, poi se non perdi il treno. No, vabbè. Grazie, in questo momento non pensavo a quello, ma a essere troppo pesante. Abbiamo delle ipoteche molto grosse nel Mediterraneo, perché c'è, oltre alle testate americane, c'è l'arsenale francese, e i francesi partecipano a questo gara per modernizzare le armi nucleari. Se ne parla poco, ne so poco anch'io sinceramente dei progetti francesi, anche perché poi in Francia la Force de Frappe è una cosa che non è meno segreta di quello che viene negli Stati Uniti, anzi gli Stati Uniti hanno questi trattati con la Russia, per cui alcuni obblighi devono ottemperare. La Francia non ha trattati con nessuno, quindi non è limitata in nessun modo nei suoi programmi nucleari. Io non so bene, sta modernizzando tutti i sommergibili nucleari con una nuova generazione di sommergibili nucleari. Quindi, questa la dice lunga su quanto punti a questo. Ma non dimentichiamoci che c'è l'arsenale di Israele, perché è quello che viene di solito, non viene molto ricordato, perché Israele non ha mai ammesso la sua esistenza. Israele ha sviluppato le armi nucleari fra i primi paesi al mondo. Negli anni attorno al 1960 la Francia sostenne il programma di Israele di realizzare la bomba, con una cooperazione significativa, perché Israele aveva tutte le conoscenze, perché gli scienziati israeliani erano stati fra i maggiori contributori della realizzazione della bomba degli Stati Uniti con lo progetto Manhattan, hanno partecipato massicciamente, quindi avevano in mano tutti gli elementi per poter, però Israele soprattutto a quei tempi non aveva la capacità industriale per poter, tecnica industriale. Allora la Francia, collaborando con Israele, semplifico molto perché ci sono sotto anche molte cose che poi non sono ancora state sviscerate anche dagli storici, stabilì una collaborazione, perché in pratica, semplifico all'osso brutalmente, gli israeliani aiutarono i francesi a costruire la bomba nucleare. Nel 60 ci fu il primo test nel Sahara, ma la bomba era costruita in collaborazione con gli israeliani, quindi avevano acquisito i materiali, la conoscenza, le conoscenze erano i materiali, perché era l'arricchimento dell'uranio e la produzione del plutonio che era il problema. I francesi aiutarono gli israeliani a costruire la centrale di Dimona, che poi il centro nucleare, ricordate Mordecai Vanunu, ve lo arrestato in Italia. Arrestato in Italia, insomma, una storia lunga, adesso altri divagherei. Allora, questo arsenale di Israele, che poi, siccome non è dichiarato, qualcuno lo valuta in 80 bombe, qualcuno in 200, sono sicuramente bombe ultramoderne, ultimo modello, sicuramente. Questo è garantito per tutti i giudicati, ma è uno dei punti di forza ufficiali della supremazia di Israele in Medio Oriente, che è quello che fa la differenza rispetto a tutti gli eserciti arabi che ci sono. E Israele li ha sconfitti più volte, tra l'altro una volta nel 73 li sconfisse con un ponte aereo immediato che gli Stati Uniti furono costretti a inviare per rifornire, perché stava perdendo la guerra Israele con gli arabi, perché gli Stati Uniti avevano fermato la spedizione di armi. Israele minacciò: ah sì, non ci dai armi, allora noi usiamo l'atomica. Immediatamente partì un ponte aereo massiccio dagli Stati Uniti che fornì le armi a Israele e sconfisse. Quindi la bomba atomica gioca un ruolo, anche quando noi diciamo che il nuovo trattato proibisce il possesso, l'uso e la minaccia, perché questo è fondamentale, perché eliminare la minaccia dell'arma nucleare vuol dire eliminare un'ipoteca pesantissima sui rapporti internazionali, i rischi di guerra e le minacce di guerra. Allora, vengo proprio alla conclusione. Io vi faccio notare che non è la prima volta che si parla di Medio Oriente denuclearizzato, perché pochi ricordano che nelle periodiche conferenze di revisione del trattato di non proliferazione, che ce n'è una ogni 5 anni dal 1970, l'anno prossimo ci sarà un'altra, di solito tutte inconcludenti da quando vengono fatte, perché gli stati, le grosse potenze nucleari non ne vogliono sapere di ottemperare all'articolo 6 del trattato di non proliferazione, che imponeva trattative in buona fede per arrivare al disarmo totale e non l'hanno mai realizzato, una cosa non voglio dire, sono un po' lungo, ma la conferenza di revisione del 2010 fu molto contrastata, non si concluse neanche con un comunicato comune, però fu presa una decisione all'unanimità di indire l'anno successivo una conferenza internazionale per la denuclearizzazione del Medio Oriente. Israele chiaramente diede l'iscandescente, insomma, per farla breve, quella conferenza non è mai stata fatta. Questa la dice lunga su come sia difficile denuclearizzare il Mediterraneo, perché Israele sarà una resistenza strenua. Io temo che sarebbe disposta alla guerra piuttosto che rinunciare, usarle piuttosto che eliminarle, ma insomma ecco, è una cosa chiudo davvero su questa cosa perché credo che poche la sappiano, ma molto interessante su questo articolo 6 che non è mai stato dentro il trattato di non proliferazione del 1970, che non è mai stato applicato. Qualche anno fa le isole Marshall, di cui fa parte l'atollo di Bikini, che ha avuto una sessantina di test nucleari degli Stati Uniti, la popolazione di Bikini. La Francia. La Francia ha avuto gli Stati Uniti a Bikini, nelle isole Marshall, no? Furono gli americani. Che la popolazione ha fatto un ricorso. Ecco, la popolazione ha intentato una causa presso la Corte Internazionale di Giustizia, la quale ha esaminato tutte le cose. E sapete perché è stato rigettato il ricorso? Perché la Corte di Giustizia ha stabilito, ma era anche quasi da aspettarselo, perché poi i pretesti, che quello che stabiliva il trattato di non proliferazione non era vincolante, perché era un trattato che non aveva degli obblighi e delle sanzioni per chi. Ecco, il nuovo trattato, l'ho voluto dire perché è importante, il nuovo trattato invece proprio prevede degli obblighi agli stati che aderiranno, che firmano. Quindi insomma è un segnale di cambiamento importante, quindi l'obiettivo primo che dovremmo avere è quello che l'Italia rompa questo muro della NATO e si decida a firmare. Guardate che c'è già in Senato un progetto di legge di ratifica che è stato approntato dagli avvocati, io li conosco personalmente, della IALANA, che è l'Associazione Internazionale degli Avvocati contro le Armi Nucleari. Quindi è un progetto di legge molto semplice, di due articoli, che prevede che il Parlamento vincoli il governo a firmare, quindi sarebbe una cosa decisiva. Quindi è lì che aspetta, ma nessuno lo presenta, figuratevi, in un paese dove sono appena stati decisi un aumento di 4 miliardi e mezzo delle spese militari, mentre Taranto va in rovina, non ci sono 2 miliardi per la bonifica del sito inquinato di Taranto, ma 4 e mezzo per le spese militari, e quelli per gli F-35, quelli non si toccano, e tutti i governanti semmai si litigano su un centesimo della plastic tax, perché, ma sulle spese nucleari sono tutti d'accordo. Questo è uno dei drammi di questo paese, una delle cose. E purtroppo, e chiudo, il movimento per la pace non è unito su questa cosa. Non siamo riusciti nei due anni in cui si è trattato, il discusso all'ONU il trattato ed è stato approvato, non siamo riusciti a creare una unità di tutti i movimenti per la pace, pacifisti italiani, almeno su questo obiettivo di agire tutti uniti per chiedere la firma di questo trattato. Chi ha agito con del cartoline, con degli appelli, ma no, non abbiamo fatto un fronte comune, non si accetta di collaborare gli uni con gli altri. È una cosa di una realtà tale che almeno fra i presenti va resa nota e bisogna riuscire a superare queste divisioni. Ho fatto un po' di confusione perché ho improvvisato un discorso. Grazie. Grazie anche, sono stati importanti, ma tra 3 minuti che arrivano i due taxi. Allora. Grazie, grazie di cuore, sappiamo che Moisés fu il cariaggio a portare giù la... non lo so, prima di dare la parola a Francesco, e tra l'altro ringrazio sia visto noi anche l'altro relatore, Silvano Tancarini, che ci parlerà della figura di Alberto Labate, direi di mandare, visto che si parla di Mediterraneo, di familiarizzazione del Mediterraneo, la mostra dei fondali del Mediterraneo, è molto breve, per farci capire da vicino quali bellezze sono a rischio, perché il nucleare naturalmente è una gravissima minaccia per, grazie Angelo, per adesso. Delle specie che abitualmente sono anche, immagino qui a Livorno ci andiate per male, troviamo specie che non sono autoctone. Quindi il tema del Mediterraneo, della pace, i cambiamenti climatici mettono a rischio questa che è non solo una bellezza per gli occhi, ma anche una parte fondamentale dell'ecosistema del mondo. Io ricordo sempre, tutti noi giustamente ci battiamo per piantumare e aumentare il numero di piante per migliorare la qualità dell'aria. Ricordo che noi respiriamo grazie al mare, cioè il mare è il polmone blu del pianeta, proprio la produzione di ossigeno arriva per il 50% dal mare. Quindi la difesa del mare, di quell'1% che rappresenta il Mediterraneo, ha tre obiettivi: una difesa ambientale, una difesa umana, dei diritti umani. Abbiamo visto tutti in questi giorni quel filmato agghiacciante, spaventoso, della bambina eritrea salvata dalla guardia costiera. Finalmente noi torniamo a vedere. Abbiamo vissuto per un anno senza vedere queste immagini, perché è stato messo silenzio. Sono morte più di 1500 persone in Mediterraneo. Il Mediterraneo, che è l'1% del mare del pianeta, è diventato il più grande cimitero in acqua. Questo noi non lo possiamo consentire. Quindi Mediterraneo, mare di pace con l'ambiente, mare di diritti umani e, ovviamente, come ha spiegato Angelo prima, per delle ragioni, denuclearizzato. Noi abbiamo navigato, come ha detto Alessandro, per un mese e abbiamo visto, lui ricordava il sottomarino al largo di Tolone, abbiamo visto le due anime del Mediterraneo. Abbiamo visto delfini che ci hanno accompagnato due volte proprio nel Golfo di Marsiglia e poi verso Palermo, e abbiamo visto i sottomarini. Allora, non ci possono stare tutte e due. Quindi noi scegliamo un mare pieno di delfini, chiaramente. Grazie. Grazie a voi. Cedo la parola a te, Francesco, per presentare questo importante strumento di formazione dei giovani a una cultura diversa. Metto un po' in qua. Sì, come ti senti tu più comodo. Sì, forse, no, tra l'altro questo... Mi chiamo Francesco, sono originario della Sicilia, di Comiso, provincia di Ragusa. Ero ragazzo quando, negli anni 80, il movimento pacifista proveniente da tutto il mondo si concentrò su Comiso. Un vecchio aeroporto militare, il Magliocco, doveva essere trasformato a base militare americana, con questi missili cruise che potevano raggiungere da lì i loro obiettivi nel Mediterraneo, nel Medio Oriente, persino in Russia. E a quel tempo ho conosciuto Alberto Navarro, ho conosciuto tanti. Alfonso Navarro, certo, tantissimi. Sono venuto in contatto poi in seguito con Nello Dolci, che è stato un grande maestro. Grande Nello Dolci. Lavoro nella scuola. Qualche tempo fa, tutti sapete che all'improvviso è successa una cosa che a noi è sembrata strana, noi come insegnanti di formazione sono fisica. Insegno quindi matematica e fisica. Cos'è successo? Che all'improvviso, per la prima volta, ai nostri studenti veniva detto: uscite, andate per strada, manifestate. Manifestate per i cambiamenti climatici. A noi insegnanti, per la prima volta, è stato detto: uscite, accompagnateli. Ora, se permettete, io non è che sia diffidente per natura, sembrava una cosa bella, ma allo stesso tempo faceva pensare, perché l'anno prima, quando gli studenti facevano le loro autogestioni, le loro manifestazioni, ma anche occupazioni, non venivano trattati così bene, anche se all'interno dei loro argomenti c'era l'ambiente. Quindi sembrava una cosa molto costruita, ma non è questo che interessa. Questo movimento in qualche modo è eterodiretto, è un movimento mondiale ed è importante che ci sia. È importante che ci sia perché il cambiamento climatico è un enorme problema. E cosa abbiamo deciso di fare? Siccome durante queste manifestazioni cosa accadeva? Uno va in giro per queste manifestazioni e guarda i cartelloni. Sul cartellone l'unico imputato appunto è la CO2 e il cambiamento climatico. e tutto il resto? Insomma, quegli stessi ragazzi sono stati portati più o meno allo stesso modo, per esempio, a Pisa la giornata della solidarietà, che finisce con dei caccia militari che sprecciano, caccia tricolore militari, che sprecciano sul Lungarno, consumano la bellezza di 15.000 litri di cherosene quando fanno i loro voli acrobatici. Allora io comincio a far fare i conti ai miei studenti. Dico, ma a confronto quanto consuma un'automobile? Poi andiamo a vedere quanto consuma un carro armato e così via. Cioè, come contribuisce la preparazione della guerra anche questa al cambiamento climatico? E c'è solo questo problema? Perché quando si parla di effetto serra, se io chiedo ai miei studenti, dipendenti, dico, ma l'anidride carbonica cos'è? È una cosa che fa malissimo, è un inquinante. No, non è un inquinante. L'anidride carbonica fa parte di un processo. Le piante hanno bisogno di anidride carbonica e ci restituiscono ossigeno. Prima diceva giustamente, il mare ci sono piante microscopiche, il fitoplancton, che ci danno, e diceva prima, i mari ci danno il 50%, c'è questo grande respiro del nostro pianeta. Il nostro pianeta è, come è stato descritto, Danilo Dolci lo descriveva come una creatura di creature. I biologi dicono un metaorganismo, Gaia, vivente. E noi possiamo vedere il suo respiro. Cosa ci manca? Beh, questi ragazzi prima ci hanno fatto intravedere cosa manca. Manca, ma tutti noi normalmente un po' facciamo quello che loro fanno. Certo, dovremmo farlo tutti i giorni, quotidianamente. Noi in questo mondo dovremmo imparare a contemplarlo, prima di tutto. Ci vorrebbe un bel ministero della contemplazione che ci aiutasse a fare questo, no? Contemplarlo. Contemplare è una parola bellissima, perché contiene il cum, cioè la cosa che va fatta insieme, e il templum, cioè la sacralità, la spiritualità. E noi invece, ne parlavo con Mario, autore di questo libro insieme alla moglie, Carla Pellegrini, dico, ma questi ragazzi sanno sempre meno, io vivo nella scuola e vedo che sanno sempre meno di questioni ambientali e si fanno portare facilmente. Allora dobbiamo aiutarli, dargli uno strumento che gli aiuti a far vedere tutta la complessità della questione ambientale, perché la questione ambientale è una cosa estremamente complessa. Vi dicevo prima, nei loro cortei mancava un cartello, anche un solo cartello, che dicesse del rapporto tra l'ambiente e la guerra. Non c'erano, semplicemente non ci sono. Perché? Perché non se ne parla. Ma sapete che la scuola è molto cambiata, in negativo. Molte materie, per esempio la geografia, è stata accorpata alla storia. Ora si parla di geostoria, ma poi all'interno della geostoria viene chissà perché è sacrificata. In un altro ambito, la merceologia non esiste più, la microbiologia del suolo, anche ad agraria, non si fa più, non interessa. Ci sono delle ragioni ben precise. Bisogna coltivare in un certo modo. L'agricoltura deve essere un'agricoltura violenta, meccanica, non che deve essere, è quella che è prevalsa. Deve essere un'agricoltura meccanicizzata, chimicizzata, stampelle chimiche, a cosa? A grandi monoculture. Se io faccio un campo completamente contro natura, poi cosa succede? Succede che ho bisogno di stampelle chimiche, in forma non solo di concimi chimici, ma di pesticidi. E noi facciamo un'agricoltura che al momento della produzione produce cibi avvelenati. I veleni aumentano nel momento della trasformazione. trasformazione in cui li confezioniamo come cibi industriali. Facciamo del male alla terra, facciamo del male alla nostra salute, facciamo del male alle persone che ci vivono intorno. Ci dobbiamo chiedere se è possibile un modello diverso. Un modello diverso è possibile ed è bellissimo. E queste cose le discutiamo e raccontiamo agli studenti anche in questo libro. Vi do un'idea di un modello alternativo bellissimo. Hanno cominciato pionieristicamente molti agricoltori a chiedersi, la domanda da cui si parte è: ma perché un bosco o una foresta? Tutti noi ce la siamo fatta questa domanda. Chi la coltiva la foresta? C'è qualcuno che la coltiva? C'è qualcuno che la ara? C'è qualcuno che la concima? C'è qualcuno che va lì a potare gli alberi? Eppure la foresta cresce, se lasciata in pace, rigogliosa. Da questa domanda nasce una modalità incredibile, bellissima. Si può fare agricoltura imitando gli ecosistemi naturali. Imitare gli ecosistemi naturali significa costruire in maniera opposta a quella che facciamo, cioè dalla monocultura passare alla complessità ecosistemica in cui ci basta sostituire piante che non siano, che siano anche edibili, che producano frutti, che però sono organizzati nel modo di un ecosistema. Ci sono pionieri di questo. Allora uno si chiede, dice, ma sarà che però così può succedere che il bosco è poco produttivo? Sarà che siccome siamo tanti, allora poi moriamo di fame? Ecco la risposta di chi sperimenta, si chiama agricoltura della foresta giardino. La risposta è questa, guardate. No, è doppiamente produttivo rispetto a cosa? Rispetto all'agricoltura intensiva. Perché? E lo spiega. Il primo strato ci sono gli ortofrutticoli, crescono bassi, spesso hanno bisogno di ombra. Strato successivo gli arbusti, allora uno trova le fragole e così via. Strato ancora successivo ci sono gli alberi da frutto. Strati ancora successivo, lui faceva l'esempio, questo che ho seguito, voglio andare a trovare, poi me l'abbraccio, perché un pioniere francese lui dice nel documentario che ho seguito, diceva: questo è un tiglio, guardate com'è alto e bello, lo sapete che le foglie che ci offre sono foglie che possiamo mangiare in salata e sono dolcissime, e chi l'accompagna gli dice: ma è bella grande la tua lattuga. Ma poi alberi ancora più alti che fanno parte dello stesso ecosistema. Gli americani e gli inglesi le chiamano food forest, foreste edili, e cominciano a fare i parchi urbani così. Alberi ancora più alti, allora cosa sono? Sono castagni, noccioli. Il castagno ha la stessa struttura organolettica, nutritiva del riso. Tu fai la farina di castagno, come noi siamo abituati a fare, se recuperiamo le nostre conoscenze acquisite antiche, e c'hai una farina che è altamente nutritiva. Questo è un modo di fare agricoltura che, una volta che la foresta è avviata, la foresta edibile è avviata, e il lavoro da fare quanto diventa? La domanda viene posta, sapete qual è la risposta? No, non c'è più da lavorare. Quando la foresta è avviata, l'unico lavoro da fare è la raccolta, perché la foresta è entrata a regime, è una foresta edibile però, quindi il tempo per la contemplazione. Ma noi viviamo un tempo in cui le macchine sono automatizzate, ma all'interno del nostro sistema economico ci tolgono il lavoro. Cioè ci liberano il lavoro nella forma della disoccupazione, e questo non è bene. Noi dobbiamo distribuire il lavoro che c'è, dobbiamo creare un sistema economico che non sia questo, quello liberista. Qui ci sono tutta una serie di capitoletti in cui, per esempio, ce n'è uno che è intitolato le pattumiere dei paesi ricchi. Noi cosa facciamo nel sistema economico che abbiamo, che è vigente oggi? Beh, facciamo questo: da una parte prendiamo i nostri rifiuti speciali, tossici, industriali e li trasportiamo in altri paesi. Capite che ci fa comodo, ma non solo i rifiuti, quelli che produciamo qui localmente, ma trasportiamo là interi settori produttivi, quelli più inquinanti spesso. E perché lo facciamo? Lo facciamo perché lì la manodopera costa pochissimo, perché lì la normativa ambientale di protezione sia del lavoro, dei lavoratori dentro i luoghi di produzione, che fuori rispetto all'ambiente, è assolutamente permissiva. Per cui puoi pagare pochissimo le persone, puoi inquinare quanto ti pare, gli dai 3 soldi e puoi portare lì i nostri rifiuti tossici. Queste cose gli studenti le sanno? Non le sanno. Non le sanno affatto. È importante che le sappiano? È importantissimo. È essenziale che sappiano come funziona questo sistema economico. Perché questo sistema economico va cambiato, anche perché questo sistema economico vi sta rubando il futuro. Ogni anno 25.000, sono tantissimi i nostri giovani che se ne vanno. In più sono, spesso sono laureati, perché non hanno qui, si dice, non c'è lavoro. Cioè. Ora attenzione, ma è vero che non c'è lavoro? Se noi ci guardiamo intorno, ci sarebbe tantissimo lavoro, buono. Attenzione, c'è lavoro e lavoro. C'è tantissimo lavoro che potremmo fare. Se uno va a vedere, per esempio, il dissesto idrogeologico che produce i danni che produce, smottamenti, frane, alluvioni, ci sarebbe da investire lì competenze, lavoro, professionalità, in maniera da mettere in sicurezza il nostro territorio, che frana. Io ho letto dei numeri dell'ISPRA, andatevi a leggere l'ultimo rapporto che ha prodotto l'ISPRA, però noi cosa diciamo ai nostri studenti? Diciamo, non c'è lavoro. Allora loro insistono e dicono, come non c'è lavoro? E io lavoro al liceo artistico, mi dicono, ma prof, guardi, cioè, abbiamo abbandonato il nostro patrimonio artistico. Io voglio fare il restauratore, ho capito che non mi pigliano alla scuola delle pietre dure a Firenze perché mettono in palio solo un posto, 2 posti là. Eppure guardi quanto lavoro c'è da fare. E allora, se insistono e si accorgono che di lavoro ce n'è un mare, la risposta cambia. Si dice sì, il lavoro c'è, ma mancano i soldi. Allora bisogna che noi tutti ci chiediamo cosa sono i soldi, perché i soldi per esempio si trovano nel sistema per alimentare il sistema militare e non si trovano, sono delle scelte ben precise, non si trovano in altri luoghi. I soldi oggi sono gestiti da privati. Sono loro che li emettono, il sistema delle grandi banche private. Prima avevamo le banche pubbliche, negli anni 90. Non ci sono più le banche pubbliche. È tutto un sistema privato che emette moneta a debito. C'erano i grandi religiosi del passato che si facevano bruciare in piazza contro il sistema a interesse a debito. Il grande Savonarola, per esempio. Noi oggi abbiamo accettato il sovvertimento della finanza pubblica. I soldi, un paese come l'Italia, se li fa prestare a debito e gran parte di questi soldi li spende per esempio nel sistema militare per pagare gli interessi che questo debito produce. Cosa fa? Toglie soldi ai servizi pubblici, toglie soldi al bene comune, toglie soldi alle scuole. Le scuole, all'interno delle scuole, trasformano anche il linguaggio. Noi non diamo più i voti, noi diamo debiti e crediti. Debiti e crediti è il linguaggio dell'economia. Le scuole, i ragazzi le devono pensare come se fossero delle aziende. Tanto è vero che non c'è più il preside nelle scuole, c'è il dirigente. C'è il dirigente d'azienda. La sanità, la salute, tu la puoi chiedere soltanto se te la puoi pagare. Si stanno trasformando il grande sistema sanitario nazionale in un sistema sempre più di tipo assicurativo. Se hai i soldi ti puoi curare. Perché è questo che sta accadendo. Quando vai in ospedale e dici io ho questo male, dovrei essere operato, e ti senti rispondere: mi dispiace, c'è una lunga lista d'attesa, tra 3 mesi, tra 4 mesi, mi dispiace. Allora tu fai la faccia con punta e subito dopo cosa ti dicono? Ti dicono: però se lei dispone in intramedia, utilizzando la struttura pubblica, pagando, allora la curiamo anche subito, interveniamo anche subito. La nostra Costituzione contiene tutti i suoi articoli, per esempio se uno va a vedere tutto il titolo 3, la lotta all'ambiente. Se uno va a leggersi l'articolo 41, c'è scritto: l'attività privata è libera. Benissimo, ma solo se non a discapito dell'interesse pubblico. Se fai qualcosa di dannoso all'interesse pubblico, quella cosa non la puoi più fare, non la devi fare. L'ultima cosa, poi concludo, perché so che ci sono molti altri a parlare. Quando io parlo con i miei studenti del rischio nucleare, loro, ma anche gli adulti, spesso pensano: ma no, la guerra nucleare non è possibile, prof, non succederà mai. Ho riscontrato che molti adulti sotto sotto pensano questo. Ora, è bene sapere qual è effettivamente lo stato delle cose, perché lo stato delle cose non è questo. Dunque, è finita la Seconda Guerra Mondiale, faccio un rapido excursus. Finisce la Seconda Guerra Mondiale, ci liberiamo del nazismo, del nazifascismo, e siamo nel 45. Noi festeggiamo la liberazione il 25 aprile. In realtà tutti sappiamo che siamo stati occupati da qualcun altro. Ci sono più di 100 basi militari sul nostro territorio. A occupare il nostro territorio sono gli americani, i quali in questi anni di pace hanno fatto da 20 a 30 milioni di vittime in tutto il mondo. Hanno più di 800 basi militari sparse per il mondo. Il loro nemico, quello della prima ora, quando nasce la guerra fredda, chi è? È l'Unione Sovietica, è la sua ideologia. Questo era il nemico della prima ora, che giustificava le basi militari, che giustificava l'apparizione della NATO, che giustificava gli armamenti atomici. Se uno va a vedere, questo si è scoperto di recente, avevano un piano di distruzione dell'Unione Sovietica. Perché non hanno distrutto l'Unione Sovietica? Perché nel frattempo l'Unione Sovietica lo sapeva e si è armata e fa il primo test nucleare. Arriva dopo pochissimo tempo non alla bomba atomica a fissione, ma quella a fusione. Per innescarla serve una bombetta atomica, serve qualche milione di gradi. Quando inneschi la bomba a fusione, il risultato è una bomba 1000 volte più potente come ordine di grandezza. Nasce la NATO, dall'altra parte nasce il Patto di Varsavia. Arriviamo all'89, c'è la guerra fredda che tutti conosciamo. Arriviamo all'89, cade il muro di Berlino, cade l'Unione Sovietica, il nemico non c'è più, sparisce. Cosa fa il sistema, il complesso militare industriale, sparisce anche lui, perché potrebbe sparire, non c'è più il nemico. Però vuole continuità, perché è un sistema enorme. Allora ha bisogno di un nuovo nemico. Il nuovo nemico viene creato, inventato, messo in atto. Oggi possiamo dirlo con molta tranquillità. Il nuovo nemico creato proprio in laboratorio è l'estremismo islamico, il terrorismo internazionale. L'atto di questa creazione, quello più visibile, è il collasso delle torri gemelle. Vengono fatte, è qualcosa di... Io ogni anno quando arrivo a quel capitolo di fisica con i miei studenti devo far vedere come è assolutamente impossibile che quegli aerei che picchiano lì sulle due torri gemelle siano state la causa del collasso delle torri gemelle. Non è così. Ci vorrebbe, non so se ho un minuto per spiegarlo. Sì. Allora, pensateci un attimo. Le torri gemelle sono alte 400 metri, la loro anima portante è d'acciaio, hanno un'anima portante di acciaio, 47 piloni d'acciaio. Assistiamo all'impatto, ce lo fanno vedere in diretta mondiale. Assistiamo all'impatto, vediamo che a un certo punto esce fumo nero. Tutti noi sappiamo che quando esce il fumo nero e non si vede più fiamma, l'incendio è esaurito. Quanto è durato l'incendio? Circa un'oretta. Quanti piani ha coinvolto? Su 110 piani che era la struttura, 3-4 piani. L'incendio si è spento. Sapete che oggi voi potete andare a parlare con chi al momento dell'impatto stava al di sopra, nei piani al di sopra del punto di impatto, che ha attraversato la zona impattata ed è sana e salva. L'incendio è spento. Allora sono in corso i soccorsi. La struttura è perfettamente stabile. Ci sono in tutta la struttura gli interventi di soccorso. All'improvviso la torre collassa su se stessa. Ma fatevi una domanda. Com'è l'acciaio subito sopra e subito sotto il punto di impatto? È perfettamente integro, al massimo si è scaldato. A che temperatura fonde l'acciaio? A 1500-1600 gradi. Che temperature sono state raggiunte lì? Bassissime, l'incendio era spento. Come fa allora? Questo è un argomento di fisica, ma tutti lo possono intuire. L'ultimo piano arriva al suolo come se io potessi, avendolo in mano l'ultimo piano, lasciarlo cascare 400 metri. In tempi di caduta libera impiegano 9 secondi. Cioè se io vado su 400 metri, prendo un pezzo di cemento, un mattone enorme, grosso, e lo faccio cascare, quanto tempo impiega senza ostacolo a cascare? Impiega 9 secondi. Quanto tempo ha impiegato effettivamente l'ultimo piano ad arrivare al suolo? Poco più di 10 secondi. E allora? E la struttura portante in acciaio dove era? Ora pensateci, noi tutti abbiamo creduto, ce l'hanno fatto vedere in diretta mondiale, che sono stati terroristi arabi. Se io chiedo a voi, beh, qui dentro sono sicuro che molti lo sanno, ma quante sono le torri che sono crollate? A molti viene in mente due. In realtà sono tre. Perché la terza non se ne doveva parlare? La terza, la torre numero 7, crolla con la stessa dinamica. Non se ne deve parlare per un motivo. Perché quella è crollata con la stessa dinamica, ma nessun aereo l'ha impattata. Capite? Chi è che mette in discussione tutto questo oggi? E c'è la riapertura del processo, una gran jury, sono i familiari delle vittime che stanno chiedendo la riapertura del processo, la ridiscussione di quello che effettivamente è avvenuto lì. Quelle torri sono state, a detta di tantissimi esperti, minate dalla testa ai piedi, la struttura portante è stata demolita e attenzione che i professionisti della demolizione controllata non si trovano in altri paesi, si trovano in America. Quella torre è stata demolita con esplosivi militari, la termite e varianti della termite. Quando esplode la termite, la temperatura raggiunge 2500 gradi quasi all'istante. La fusione dell'acciaio avviene, anche se temperato, a 1500 gradi. Immediatamente nel punto in cui è messo l'esplosivo si scioglie. La struttura minata viene giù, è venuta giù in perfetta verticale e in tempi di caduta libera. Ma noi tutti abbiamo creduto che questa fosse una giustificazione sufficiente per andare a fare la guerra l'indomani in Afghanistan, in Iraq. Abbiamo detto bene, gli americani si devono difendere, sono stati attaccati nel proprio territorio. Perché hanno scelto l'Iraq? Perché hanno scelto poi soprattutto l'Afghanistan? Ci hanno detto perché c'era Bin Laden. Basta andare a guardare dove è l'Afghanistan. L'Afghanistan si trova tra Russia e Cina. E lì cosa ci sono ora? Basi militari americane. Tra Russia e Cina, attenzione. Noi siamo... Sì, finisco subito per dirvi questo. Lì ora si trovano delle basi militari, ci sono ancora nostri militari, nostri. Qual è il nuovo nemico che gli americani scrivono? Quindi il primo nemico, ricordiamocelo, l'Unione Sovietica e la sua ideologia, è stato sostituito da chi? Dall'estremismo islamico. Sapete cosa scrivono ora sui loro documenti? Che non è più l'estremismo islamico il nemico. Nel frattempo la NATO si è spostata e tutti i paesi dell'est, compresi quelli del patto di Varsavia, sono diventati quasi tutti paesi NATO. Ci sono basi NATO fino ai confini con la Russia. E se ora si leggono i documenti americani, cosa c'è scritto? Che il nuovo nemico è la Russia e la Cina. Allora ci si può chiedere, ma come mai la Russia e la Cina? E qui è importante capire una cosa. La de-dollarizzazione, la dico così, se uno non capisce la moneta, non capisce l'eventualità della guerra. Perché il dollaro è una moneta molto particolare ed è moneta di riserva internazionale. Spiego in poche parole. Il dollaro non è una moneta come le altre. Se noi, da italiani, nel momento in cui avevamo la nostra moneta nazionale, qualche anno fa, la lira, ci fossimo comportati come si comportano oggi gli americani o in passato, avremmo potuto decidere di fare così, guardate. Noi siamo in Italia, stampiamo lire, non lavoriamo, tutto quello che ci serve stampiamo lire e compriamo all'estero. Sarebbe stato possibile? Cosa sarebbe successo alla nostra moneta se avessimo stampato tante lire e tutto quello che ci serve l'andiamo a comprare all'estero con le nostre lire stampate? Poteva funzionare un sistema del genere? Non può funzionare. Immediatamente la moneta si svaluta. Eppure per gli americani funziona. E perché ha funzionato? Perché sono costretto da Bretton Woods, hanno imposto il dollaro come moneta di riserva internazionale. Cioè a dire, la moneta non si svaluta, anche se loro hanno una bilancia commerciale, comprano molto di più all'estero di quello che vendono all'estero, completamente sbilanciata, andatela a vedere, da decine di anni è così. Cos'è che è messo in discussione oggi? Il dollaro. Chi lo ha messo in discussione in passato, pensate a Saddam Hussein, anche Gheddafi, che voleva dare una moneta ai paesi africani, sostituire il franco francese, una moneta di seconda colonizzazione che rende i nostri fratelli africani schiavi. Di chi? Dei francesi. Ma noi non siamo mica stati bravi con i libici. Però vi ricordo che Berlusconi aveva invitato Gheddafi e gli aveva dato anche 5 miliardi come diciamo riconoscimento. Non è che io sia un berlusconiano, intendiamoci, però quello che va detto che Berlusconi aveva due problemi. Uno, che voleva continuare, voleva rinnovare il partenariato commerciale con la Libia. Due, aveva un amico un po' scomodo, Putin, lo ricordate? Il governo di Berlusconi è stato fatto cadere. Come è stato fatto cadere? È facile. Hanno venduto sul mercato un sacco delle azioni Mediaset. Per la prima volta abbiamo visto lo spread, qui mi dilungherei troppo a raccontarvi di che si tratta, però il governo Berlusconi è caduto. Abbiamo bombardato la Libia, gli aerei sono partiti in gran parte dalle basi militari italiane. Le incursioni aeree sulla Libia sono state terribili, perché la Libia, per quanto ci hanno fatto vedere, perché ogni volta hanno hitlerizzato, questo è il termine che tanti giornalisti usano, hanno hitlerizzato il capo del momento, Gheddafi, Saddam Hussein, Milosevic, Assad, per legittimare la guerra su quei paesi. Ma la Libia era un paese in cui tu puoi andare a scuola, devi andare a scuola, dalla scuola elementare fino all'università tutto pagato, la sanità tutta pagata. Qual era la colpa di Gheddafi? Aveva nazionalizzato il petrolio, cioè questo petrolio è nostro, capite? Questa stessa cosa si rimprovera all'Iran, la guerra può scoppiare in Iran. Però torniamo sull'eventualità di una guerra mondiale. Se noi mettiamo in discussione il dollaro come moneta di riserva internazionale, a metterlo in discussione e anche tutto il sistema, cioè quello finanziario, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale che lo supportano, gli americani che hanno costruito il complesso militare industriale grazie a questo dollaro. Quel dollaro gli permette di fare la più grande spesa militare, cioè il paese che spende di più al mondo. È grazie al dollaro che gli americani, alla caratteristica del dollaro imposta nel dopoguerra, che gli americani hanno il più grande complesso militare industriale esistente al mondo. Ma i cinesi lo sanno e già si arma a una velocità incredibile con spirito cinese e spendono un quarto già oggi di quello che spendono gli americani. La guerra, la terza guerra mondiale, ha le porte anche per questi motivi. Lo sapete di cosa parlavano nella dottrina militare gli strateghi americani ai tempi della guerra fredda? Beh, la loro, la sigla che circolava di più era scritto MAD, Mutually Assured Destruction, mutua, cioè distruzione mutua, reciproca, assicurata. Dicevano, beh, dobbiamo armarci, però c'era l'equilibrio del terrore, era questa l'idea, quella dell'equilibrio del terrore, che infatti ci è arrivata a noi. Beh, una guerra mondiale no, non si fa, perché se no ci sono vincitori e vinti. Oggi lo sapete come ragionano? È cambiata la dottrina militare. Se voi andate a leggere i documenti trovate tre paroline: First Strike Atomico. Ragionano in questi termini, guardate. First Strike Atomico significa: io mi organizzo in maniera tale che all'improvviso faccio un first strike atomico, cioè ti colpisco all'improvviso in maniera così pervasiva da paralizzarti e da minimizzare la tua possibile risposta. Se per caso c'è la tua risposta, io la paro. Infatti abbiamo in Romania e in Polonia delle rampe di missili intercettori. A cosa servono? Sono missili sia offensivi che dovrebbero rispondere a un'eventuale risposta da parte russa, da parte cinese. E di questi giorni sono gli accordi tra Russia e Cina, in cui non sono solo accordi economici, ma sono accordi militari. Tutto il sistema, hanno abolito, lo diceva prima caro Angelo, hanno abolito l'INF, missili a gittata nucleare intermedia. Quindi è molto probabile che il primo teatro di guerra sia proprio la nostra Europa. Questo ci fa piacere. Avere missili, cioè avere testate nucleari sul nostro territorio, ci rende oggetto di ritorsione nucleare. Non è solo il fatto che ce l'abbiamo lì e fanno male all'ambiente, ci rende oggetto di ritorsione nucleare. Allora, capite la situazione in cui siamo oggi? È una situazione terrificante rispetto alla quale, quando parliamo solo di riscaldamento climatico, dobbiamo parlare del fatto che la guerra non è assolutamente sostenibile, e queste cose le devono sapere i ragazzi, le devono sapere tutti. Il rischio che corriamo, continuando a stare nella NATO, continuando a ospitare quelle basi, lo devono conoscere tutti. Lo devono conoscere gli artisti, lo devono conoscere gli studenti, lo devono conoscere le persone comuni, tutti, e tutti noi insieme, tutti i paesi che stanno dentro la NATO, dovremmo uscirne. La nostra Costituzione vuole l'Italia un paese neutrale. La nostra Costituzione nasce all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Se voi andate a leggere le parole dei padri costituenti, lo sapete cosa dicono? Dicono due parole: mai più. Dobbiamo scrivere la nostra Costituzione in maniera che non succeda mai più. A cosa si riferiscono? A un modello economico, quello liberista. Loro dicono le grandi crisi di inizio secolo, la crisi del 29 in particolare, hanno dato vita ai grandi totalitarismi che hanno dato vita alle grandi guerre. Mai più. Dagli anni Ottanta quel sistema economico è di nuovo è stato fatto risorgere su scala planetaria. E quindi capite che siamo in una situazione estremamente difficile. C'è un mercato nuovo, che è quello del denaro privato a debito, su scala internazionale. Qui il discorso si fa estremamente lungo. C'è in pratica una finanza che porta ogni giorno verso la guerra, è una finanza di guerra. Quindi i nostri ragazzi devono sapere il rischio che corriamo. Questo librettino vi racconta la complessità enorme della questione ambientale, che è estremamente legata alla guerra, così come gli è legata la immigrazione, le migrazioni e l'immigrazione. E il rapporto tra economia e guerra, tra sistema economico capitalista come quello che c'è ora, liberista, e guerra, e quindi è un librettino densissimo, perché vedete sono poche pagine, e che però è una sorta di vademecum che forse non solo i ragazzi dovrebbero leggere, ma anche gli adulti. Vi ringrazio. Argomentazione. Il prezzo di questo libro è 10 euro, 5 per gli studenti. E quindi no, qui ce ne sono. Se qualcuno lo vuole, ne ho portato qualche copia e lo diamo a 7 euro. Qualcuno l'ha già detto. Ok. Scusa? Ah, 12 ore. E poi diamo la parola. un increscioso incarico, purtroppo, è toccato a me, questo ci vorrebbe fare, di chiedere un'offerta libera a tutti i partecipanti che possono, quindi non possono essendo libera, se non sarebbe libera, sarebbe occupata. Allora noi siamo molto preoccupati, ma anche per l'occupazione. E niente, abbiamo l'offerta lì di un contenitore sull'ultima seggiola nero, di uno strumento musicale che si chiama ukulele. Come l'abbreviazione di Gabriele, quindi essendo pochi vi suggerisco che può di essere piuttosto sull'inizio. Grazie. Solo sapere le cose, bisogna saperle dire. Come? Io, è importante saperle dire. Allora io darei la parola a un insegnante. Sì, ma io non parlo, io in genere faccio parlare. E Silvano Tardelli. È importante. Perché abbiamo avuto il contributo di Francesco che ci ha introdotto sull'importante versante della formazione dei giovani con dei contenuti che aprono la mente a questa interconnessione militarismo e ambiente. Ma è importante anche ricordare in questo quadro la figura di Alberto Labate, perché Alberto Labate, sociologo, è stato uno dei simboli del pacifismo, della non violenza, ma di una non violenza attiva, un attivista contro il nucleare civile, pensiamo alle battaglie di Montalto di Castro, nucleare militare, ancora prima, Comiso, ma anche un promotore di ambasciate di pace e anche un promotore della fondazione delle Nazioni Unite attraverso l'idea di una ONU dei popoli. Quindi Silvano è stato un suo amico, è stato vicino nei momenti più difficili del suo percorso e quindi non ci sono parole migliori di un amico per ricordare questa figura straordinaria. Tu la tua relazione l'hai intitolato un sociologo della trasformazione e un sociologo per l'azione. Io in realtà non ho preparato alcune relazioni, perché uno l'ha pagato 10 e perché io quando mi ha chiesto di parlare di Alberto, spero che alcuni di voi, che sono molti, però io ho cercato, non è facile parlare di una persona che poi, per quanto tu l'hai conosciuta, ti rendi conto che poi non la conosci. Questo credo che succeda un po' a tutti. Ma io comunque, io parto dall'inizio con Alberto velocemente, perché non mi voglio far perdere troppo tempo, per farmi un ricordo e darmi se posso l'immagine come lo chiara io. Io ho conosciuto Alberto abbastanza approfonditamente a partire dall'estate del 90, perché rispetto a tutto quello che è stato detto qui da sia Angelo Baracca che da Alessandro e dall'ultimo che ha parlato, sono sempre tutti legati alle storie, e questi temi vedono, come sollevava Angelo, una grossa dispersione e divisione delle poche anime attente agli eventi. E Angelo lo segnalava rispetto al mondo pacifista. Se noi scendiamo nel 90, la situazione è un po' uguale. Non so se quando il 2 di agosto venne data la notizia dell'invasione del Kuwait, io allora ero della Lega di San Maria dell'Aria, mi collegai subito con con Alfonso Navarro, che era sempre da Lega, siamo laterali, perché la questione si capiva fin dall'inizio che aveva una situazione, era una guerra nuova, con degli elementi nuovi al suo interno. Noi ci attivamo da subito e fra i primi che risposero all'appello ci fu Alberto Abate e Francesco Tullio, che era uno psichiatra di Perugia. Poi ci risposero varie persone, comunque noi facemmo un'organizzazione che allora si chiamava Volontari di Pace e Miglioramento e andammo in zona di conflitto, quella che poi doveva diventare la regola. Io lì ho cominciato a conoscere Alberto, fin dall'inizio. Mi ricordo, noi facevamo varie riunioni ovviamente per l'Italia, una grossa a Pirellone a Milano, perché allora il movimento pacifista era molto defilato, anche i verdi erano molto perplessi, insomma questa guerra si doveva fare, perché poi non era una guerra così, era una guerra di equilibrio, qui si era quasi un guerra, insomma la situazione era di questo tipo, non si era capito che i giochi erano truccati, come poi è venuto fuori. Comunque, al di là dei giochi truccati o no, come è stato detto qui, noi siamo partiti all'epoca dal presupposto, e Alberto era fino in fondo su questo presupposto, che la guerra è un crimine contro l'umanità, è un non senso, non risolve nulla, e che quindi noi siamo in questa guerra. All'epoca, tanto per chiarire i concetti che sono venuti fuori, sono nati, io ve lo dico, perché in quel momento lì, Don Giovanni qui era una delle menti attente anche lei in quel momento lì, sono nati una serie di concetti che non c'erano e poi sono venuti fuori. Ambasciata di pace non esisteva, l'abbiamo inventata noi, inventata la parola, si è diventata come l'ombrello, diciamo l'abbiamo chiamata noi, l'abbiamo codificata noi, nel senso che l'abbiamo dato come fa la Treccani, no? In questo libretto c'è qualcosa in questo. E i corpi civili di pace non c'erano, lui dice sì, di Shantisena, c'era tutta una serie di situazioni, ma insomma nessuno era entrato in zona di conflitto. Quindi noi all'epoca rappresentavamo una minoranza, eravamo una minoranza all'interno di una minoranza per di più divisa. Io mi ricordo l'angoscia di quando partivamo. Pietro Pilla, che io, a cui io ho voluto bene, anche se all'inizio lo guardavo con sospetto, per tante situazioni, io non faccio parte dell'area non violenta, ma nell'area non violenta noi eravamo, io, Alberto e altri, eravamo guardati con sospetto, perché noi eravamo più gli uomini del fare e la non violenza è più per la testimonianza. Io mi ricordo Pietro Pina in una chiacchierata, mi disse ma guarda, ma tu continui, mi disse, tanto senti, quando esci dalla testimonianza i radicali ormai ce l'hanno insegnato. Come si esce dalla testimonianza si perde la tolleranza. Questa era la postazione di Piero. O Piero, come lo chiamo. Allora, io perché ricordo queste piccole cose? Non per sostenere alcune verità, per dire che in quel momento lì, che era un momento di buio, eppure è nata la luce, un segno di speranza, perché noi quando siamo andati in Iraq, eravamo in Iraq nell'ottobre del 90, ci abbiamo trovato gente dell'oceano. Io da quando arrivai lì mi sembrerebbero, cioè perché avevamo paura di essere detto. Un verde che si chiama Stefano Quadro ci aveva creduto molto, lo stesso Alex Lager. Noi cercavamo prima di partire, per evitare di essere fuori al vento, di avere un aggancio minimo politico, che sì, la segreteria di PM, tre gatti che ci aiutano, se ti vuole, questi tre gatti furono, sarebbe come dire, te in tutta la vita chi ti ama, la Giovanna Pagani, ma la Giovanna Pagani è una, non è che mi può, cioè, quindi noi eravamo in una situazione che 10 persone ci sostenevano, capito? Noi volevamo fermare la guerra che stava per scoppiare, eravamo una forza di interposizione sostenuta da 10 persone. Quindi io mi ricordo che prima della pace per Lucia Assisi, questo libretto era anche dimenticato perché è stato fatto un po' frettolosamente, sono ricordato tutta una serie di estremi, non di cose avvenute, ma non questa. Avvenne un incontro a Città di Castello dove c'era Mauro Appiani, che è ancora vivo del movimento antiviolento e può testimoniare, c'era Stefano Boato, penso che sia ancora vivo, e c'era Alex Lange, che non è, persone, ma non fu, non era una riunione modesta, tipo questa, così, dove noi eravamo un incontro dove cercavamo consenso, onestamente, per non partire disperati e soli, no? Certo, convinti delle nostre idee, ma con tanta angoscia dentro. E Alessandro non sapeva niente del corpo civile di pace, ma ne parlai io in quell'occasione, ma non io, perché conto qualcosa, perché in quel momento c'ero io, non c'era bene. E pochi altri parlavano di questa situazione. Alessandro, 4 anni dopo, nel 94, presentò una proposta sul corpo civile di pace al Parlamento europeo. Questo per dire che l'altro era una persona attenta, infatti mentre tutti ci sparavano a zero, ci facevano diventare, mi ricordo che un termine che usava Stefano Poeto era turisti di guerra. Ma voi non sarete mica, mi apparite turisti di guerra. Quindi questo per spiegare come spesso è difficile sostenere queste idee. Ma perché dico questo? Per tornare a Alberto Lavalde. Alberto Lavalde aveva il coraggio di sostenere queste idee apparentemente impossibili, no? Scacciate, come si dice. Ecco perché io, riprendendo da lui, da un suo libretto che ho letto di recente, l'ho chiamato una persona che trasformava, perché lui parlava, un suo sociologo di riferimento, un americano, Frederick, mi sembra, che viveva la sociologia e i sociologi che trasformano, che erano trasformatori, e i sociologi sacerdoti. Allora diciamo che Alberto era un non violento, ma non era un sacerdote della non violenza, mentre Pietro Pinna lo era. Pietro era un sacerdote. Quando partì, io allora con Pietro avevo lavorato da anni all'interno della campagna, mi diceva: ma dove vai? Io c'ho almeno un problema fino a 15 anni. Cioè, non sapevo nemmeno io, eravamo pieni di dubbi, noi siamo partiti così. Poi questo libretto qui parla dei primi 2 anni, però devo dire che noi siamo stati, per volontà di quasi un milione, siamo stati dall'ottobre del 90 fino al 1998, poi 2003, poi 2005 in Iraq. E abbiamo contribuito alla nascita del ponte, perché senza di noi il ponte Petro non nasceva. Questo ci fu riconosciuto da Paolo Alberto, che è il suo amico, nel deserto, in un pullman, fermò tutti, se vi devo dire, e disse che senza di me e Alberto, che allora eravamo, usò questo termine per identificare tutti gli altri, perché eravamo un po' molto, insomma, il ponte non sarebbe nato. Perché in realtà, perché questo? Perché noi, come volontari, non eravamo andati là, sì, per bloccare le guerre, ci mettiamo subito fuori. Cioè noi, come giustamente poi mi disse un grosso dirigente delle armi, voi aprite sentieri e noi costruiamo le città. E aveva ragione. Noi, ma aprire i sentieri non è una cosa. Io, ripensando Alberto, mi commuovo, perché Alberto aveva una fiducia nelle cose che faceva superiore a me, decisamente superiore. Io, parlando, venivo da esperienze completamente diverse, completamente diverse. Come ricordavo lui, Alberto veniva da Nino Dolci, io ho avuto degli amici, per tutti poter ricordare, che ne so, Gianfranco Ciabatti, non so se sto conosciuto, è stato un amico di Dolci, un poeta, io faccio il poeta da sempre, era un caro amico, un poeta ricercato. Allora, Alberto veniva da una cultura non violenta, io no, io venivo alla lotta continua, alla guerra operaia, io volevo fare la rivoluzione, io ero violento. Cioè, noi, il potere era sulla canna del fucile, cioè, quindi io ero violento, venivo da tutta la situazione. Ero entrato nella Lega di San Salvatore perché, per questione di scrittura, avevo conosciuto Cassone, poi dopo mi ero inserito in questa organizzazione. Cassone mi ha chiesto di occuparmi di questo mi sono occupato, senza risultati, perché poi la Lega era già sepolta quando ci metti il mio apporto, che valeva quel che valeva. Comunque, per tornare ad Alberto, ricordo un episodio quando noi andammo là. In realtà non avevamo una precedenza, noi andammo con ostaggi volontari. Il manifesto pubblicò questa cosa che io gli avevo mandato come Lega, questo appello, a questo appello rispose un gruppo di persone e noi andammo come ostaggi volontari perché ci attaccavamo al fatto che là c'era 200-300 italiani ostaggi. Perché quando gli iracheni invasero il Kuwait, che fu una trappola fatta dagli americani, insomma, andò così, le persone che erano scese là come ci si ferma col treno alla stazione e poi dovevamo riproseguire, che erano senza grossa attrezzatura, dovevano arrivare da un'altra parte, quindi non era attrezzatura, furono bloccati lì. Più quelli che erano qua, che non potevano venire, c'era 30 persone, tant'è vero che in uno dei primi viaggi, se non al primo, in uno dei primi viaggi sono venuti con noi parenti degli ostaggi, gente di Torino, di varie parti, che sono aggregati perché era l'unica maniera per andare. Perché noi avevamo l'autorizzazione del governo iracheno, perché la prima cosa che facevamo già a settembre eravamo da Al-Saf, che era allora l'ambasciatore a Roma, l'ambasciatore iracheno a Roma, che poi sono dovuto sgombrare perché con l'embargo c'è anche una linea per stare lì, e noi gli spiegavamo quello che volevamo andare a fare e ci facevamo andare. Facciamo un campo per la pace, insomma facciamo una serie di cose, la trovavamo anche le persone, ma tanto questa se no ci avrebbe, la chiudiamo qui. Però volevo dire, Alberto, in un momento di stavamo per partire, o meglio io stavo per rientrare, lui era fra quelli che rimanevano lì, perché avevamo fatto una proposta al governo iracheno per essere credibili, che noi non tornavamo tutti via, una parte rimaneva lì, e quelli che andavano via poi avremmo fatto come si leva l'acqua alla secchia, tu no. Allora, il governo iracheno, prima di noi c'era stato Capanna, l'unico che era andato. A Capanna avevano dato 4 ostaggi, portateli a casa, no? E 4 persone ce li offrirono anche a noi. Il problema qual era? Che noi rimanemmo così sconcertati. Si era fatta una festa di addio tutti insieme, mangiucchiando quel poco che c'era, che là c'era anche il bardo, e ci venne a dire che dovevamo scegliere noi. Come fai? Noi infatti non portavamo nemmeno un ostaggio, ma no, noi rifiutavamo, e siccome Saddam Hussein faceva il dittatore del mestiere, non è che poteva, poi noi andavamo un tour, o prendere o lasciare, insomma quello era il panino che ci veniva dato, per cui noi non è che potevamo discutere, noi rifiutavamo, che all'inizio ci costò parecchio, perché c'era per esempio una coppia della Sicilia con cui eravamo diventati amici, quasi fratelli, che avevano una voglia, un bisogno di tornare a casa, che si erano sposati a Padova, uscivano sul panorama, che si sposarono lì a Padova, proprio per dire, se mi sposo qui, c'era nell'aria questo discorso che potessero rientrare, ma noi non ci siamo sentiti scegliere nessuno. Poi, col tempo, per esempio, questa decisione qui è di merito di Alberto, perché Alberto si accoppia e si pianse insieme, insomma, per una tensione nervosa, non per situazioni particolari, ma la tensione nervosa era così alta. Lui poi, insieme ragionando, ma fu lui che disse no, non portiamo via. Nessuno, ma fu una decisione dura, ritornando, te lo giuro, dura. C'era della gente che dava di fuori, ma come facevi te? Tanto è vero che ci fu perfino un tentativo sballato, che lo facevano rientrare, di Francesco Tullio, che facevano lo psichiatra, Francesco Tullio, lo psichiatra. Però io mi sono sempre domandato chi cura gli psichiatri. Lui, a un certo punto della questione, tranquillo, disse, no, ci penso io, decido io. Come decidi? Ma che sei? No? Cioè, in realtà poi si riuscì a convincerlo, perché voleva scegliere lui quello che era più malato. Ma era una cosa pazzesca per noi. Non facevamo nulla. Allora, per tornare ad Alberto, Alberto era indubbiamente un uomo giusto, un uomo buono, però era, per me fu, che venivo da una cultura violenta, fu rasserenante. Per esempio, spesso ci siamo trovati di fronte a problemi molto alti per noi, che eravamo totalmente impreparati, non è che avevamo studiato la scienza della diplomazia popolare o la scienza dell'intromissione. No, lui non dava nulla, non c'era nulla di impossibile. Lui Cancella, si trovano di fronte a un muro altissimo, no? E devono andare di là. Come si fa? Beh, lui si ragionava e si diceva tutte le ipotesi possibili, io so, e anche quelle non possibili. E questa fu la maniera, e poi molto più amato, se posso usare questa parola, dal movimento non più amato.